Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, che cosa ci riserva la cronaca di questa giornata economico-finanziaria? Beh, ci riserva un Fondo Monetario Internazionale che, come ricordava anche il nostro GR, si è riunito alle 15 a Washington e ha gettato acqua fredda, doccia fredda, si direbbe in gergo, su tutte le previsioni di una ripresa economica alle porte, o quantomeno di un peggio che dovrebbe essere alle nostre spalle. Invita infatti la cautela al Fondo Monetario e dice: attenzione, la ripresa è rinviata al 2010, ci sono ancora 4.000 miliardi di svalutazione, o meglio, le svalutazioni complessive dovrebbero raggiungere i 4.000 miliardi di dollari, di cui due terzi, e quindi sostanzialmente 3.000 miliardi di dollari attribuibili al mondo bancario e alle banche. E tra l'altro questa cifra riguarda gli asset di tutti i paesi, di tutti i mercati, non solo di quello americano. Quello americano da solo comunque si becca la fetta più grossa di queste svalutazioni. Secondo il Fondo Monetario, infatti, su 4.000 miliardi, 2.700 sono attribuibili proprio agli Stati Uniti d'America. Questo è il Fondo Monetario Internazionale, che ha aperto oggi a Washington i suoi incontri primaverili, che tra l'altro culmineranno sabato con il vertice dei ministri finanziari e dei governatori del G7 e del G20, quindi per l'Italia il ministro Tremonti e il governatore Draghi a Washington, e anche con la pubblicazione del cosiddetto Outlook di primavera, ossia le previsioni diffuse in questo periodo dal Fondo Monetario Internazionale. Questo per quello che riguarda la lettura della crisi e la lettura della congiuntura economica. È arrivato anche un dato non bello oggi sull'export italiano. In realtà, visto che continuiamo a ripetere da qualche settimana che questi dati vanno visti più nell'andamento mese su mese che nell'andamento anno su anno, perché è chiaro che un raffronto tra inizio 2009 e inizio 2008 è un raffronto perdente, è un 5-0 senza discussione. Invece, se si va a guardare il dato mese su mese, qualche segnale sull'export di miglioramento, il che non vuol dire che la situazione vada bene, ma di miglioramento lo si registra. Infatti l'export italiano, che pure ha avuto un rosso nei primi due mesi dell'anno pesante, la nostra bilancia commerciale ha fatto meno 4,4 miliardi. Però nel mese di febbraio, dove le esportazioni sono scese del 25% rispetto a febbraio 2008 e anche le importazioni sono calate del 23,7%, se si va a vedere il raffronto febbraio rispetto a gennaio, beh, c'è un leggero aumento delle esportazioni. Infatti le esportazioni a febbraio hanno fatto più 0,6% rispetto a gennaio, e questo è il dato più importante da guardare. Certo, se poi andiamo a vedere l'anno su anno, sono dolori: meccanica meno 26, mobili meno 23, chimica meno 30, insomma, questi dati che ormai conosciamo purtroppo bene quanto ammontare delle cifre. Ne parleremo più avanti nel corso del programma, perché parleremo anche del Salone del Mobile che si apre domani a Milano, e chiaramente il mobile arredo è uno dei prodotti di punta, arredamento, le 4A di Marco Forti, se qualcuno di voi lo ricorda, uno dei delle quattro colonne di punta del nostro export, del cosiddetto Made in Italy. Le borse, meno 0,5% Mibtel, e anche l'S&P MIB stanno migliorando, nel senso che le borse oggi perdevano un punto e mezzo percentuale. L'America invece adesso è positiva di uno 0,3%, il Nasdaq di un punto percentuale, e miglioramenti in Europa proprio nelle ultime parti della nell'ultimo momento della seduta è netto, hanno recuperato quasi un punto percentuale le borse europee. Parigi adesso perde solo lo 0,4%, Francoforte lo 0,2%, Londra, la peggiore, perde l'1,3%. Per cento tra i titoli italiani, poi ne parleremo come sempre in maniera più diffusa: Geox più 5,1 come Pirelli, ST Microelectronics più 4,8, bene anche Mediolanum e Fondiari Assai più 3%, Ubibanca più 2,5%, resta invece in flessione Fiat meno 3,2%, Mediobanca meno 3,1%, la Popolare di Milano meno 1,90%, Unicredito meno 1,80% e poi CIR meno 4,1% e Autogrill meno 3,5%. Euro a 1,296 nei confronti del dollaro. Ultima cifra, ultimo numero come sempre a quest'ora, quello per i vostri SMS 349-238-6666. E quindi partita la nostra sigla che ricorda le notizie in breve. Il petrolio sotto i $45 a New York, a $44,8. La vicenda Fiat Chrysler, non ci sono novità di rilievo, Marchionne, negli Stati Uniti, ma non arrivano notizie di rilievo per ora dagli Stati Uniti. C'è questa ipotesi oggi presente sul Financial Times che dice in sostanza che se Fiat non dovesse chiudere l'operazione con Chrysler, Opel sarebbe l'altra opzione. Ricordo che ieri ve l'abbiamo raccontato, General Motors ha fatto sapere che è pronta a vendere Opel gratis, a patto che qualcuno poi butti dentro Opel, non dentro General Motors, 500 milioni di euro. E Luca Cordero di Montezemolo, presidente del gruppo Fiat, non ha voluto parlare e commentare le trattative con Chrysler, ha rimandato a giovedì quando c'è il consiglio di amministrazione del Lingotto, e ha detto comunque rispetto all'ipotesi di un piano B che se non dovesse andare in porto l'alleanza con Chrysler, il gruppo guarda con attenzione a tutto e non esclude nulla. Vicenda l'Italia, o meglio antitrust. Oggi si è parlato molto di trasporti e comunque di normative antitrust a margine di un convegno sulle infrastrutture che si è svolto a Roma. Il presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, per quello che riguarda le banche, poi passeremo invece ai trasporti veri e propri, per quello che riguarda le multe alle banche a margine del convegno sulle infrastrutture, ha detto che l'antitrust farà ricorso al Consiglio di Stato contro quanto deciso dal TAR del Lazio, che a sua volta aveva annullato le sanzioni, le multe che l'antitrust aveva emanato nei confronti di 23 banche in relazione alla vicenda dei mutui gratuiti. Quindi Catricalà vuole contestare la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato le multe dell'antitrust stesso. Sentiamolo al microfono della nostra Paola Cavadi. Se accettavano il cliente per un passaggio di mutuo, non dovevano fargli pagare spese. La nostra idea di correttezza professionale, come definita dal codice del consumo, non corrisponde con quella che abbiamo letto nelle sentenze. Andremo al Consiglio di Stato nella speranza che i nuovi principi espressi dal codice del consumo possano trovare piena attuazione. E poi la vicenda, il ruolo dell'antitrust nel mondo dei trasporti. Catricalà è intervenuto anche sulla Nuova Alitalia perché ha comunicato di aver ricevuto assicurazioni della Nuova Alitalia che verrà mantenuta la quota di almeno il 10% dei posti, il riferimento è alla tratta Milano-Roma, un 10% di posti a prezzi calmierati, quindi a prezzi diciamo più bassi, sotto controllo. Sentiamo Catricalà sempre al microfono della nostra Paola Cavadi. E stiamo esaminando quanti rinvii di volo ci sono, quante soppressioni, e se le tariffe che noi abbiamo imposto per il 10% dei posti sono rispettate. Su quest'ultimo aspetto abbiamo assicurazioni che il 10% è rispettato così come è voluto all'antitrust. Non abbiamo ancora un quadro completo delle soppressioni dei voli perché non avvengono in modo sistematico ma in modo occasionale. E sempre in tema di Alitalia, visto che ieri abbiamo avuto ospite chi ha deciso di organizzare la protesta di alcuni obbligazionisti che hanno comprato obbligazioni all'Italia rispetto all'offerta di rimborso fatta dal Tesoro, un 32% rispetto al valore dell'obbligazione fino a un massimo di 100.000 euro. Le accuse sono che da un lato manchi un prospetto informativo, visto che si tratta di un'offerta, ma dall'altro, nella parte più sostanziale, il fatto che vengono discriminati i risparmiatori, perché se uno ha comprato sostanzialmente 50.000 euro di obbligazione all'Italia si vede rimborsare il 32%, se ne ha comprate un milione o 300, un milione, poniamo che è più semplice, si vede rimborsare fino a 100.000 euro, quindi al massimo il 10%, discriminando non solo tra soggetti ma anche tra risparmiatori, perché chi ha comprato con i fondi avrà rimborsi molto più bassi a questo punto, visto che i fondi complessivamente hanno centinaia di migliaia, milioni di euro in obbligazione all'Italia, rispetto a chi ha comprato le stesse obbligazioni ma in maniera diretta. Su questo oggi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha annunciato che il governo sta lavorando all'ipotesi di elevare le misure dell'intervento statale già disposte in favore degli obbligazionisti all'Italia. Ultimo passaggio sui temi delle infrastrutture, del trasporto, perché sempre nel convegno a cui abbiamo fatto riferimento e sempre a margine dei temi trattati, il numero uno delle Ferrovie dello Stato, ossia l'amministratore delegato Mauro Moretti, ha previsto un utile netto per le Ferrovie dello Stato già nel 2008, ricordando che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, e voglio dire complimenti, perché io ricordo Poste da una parte e Ferrovie dello Stato dall'altra erano considerate quei così una volta, quei carrozzoni di Stato in cui era in sostanza impossibile arrivare a un pareggio di bilancio, figuriamoci all'utile. Sentiamo Moretti. Sì, abbiamo un margine operativo che è vicino al miliardo di euro e abbiamo un risultato netto consolidato, avremo un risultato netto consolidato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ebbene, anche le Ferrovie riescono probabilmente a chiudere appunto con tra 15 e 20 milioni di euro di utile netto. Dell'export parleremo più avanti. Primo tema, come ricordavo, le analisi che sono emerse dal Fondo Monetario Internazionale nel giorno in cui, è un dettaglio per carità, ma anche l'Australia annuncia che il paese è entrato in recessione, l'ultima recessione risaliva agli anni 90, e nel giorno in cui l'ormai mitico, insomma, non vorrei che venisse anche troppo esaltato, ma comunque Nouriel Roubini, l'economista che tra i primi anticipò in un famoso forum di Davos la crisi economico-finanziaria che poi si è verificata e che adesso tutti viene visto un po' come il guru, ebbene, Roubini ha stroncato oggi la tesi di una ripresa alle porte. Dice infatti l'economista della New York University: i recuperi segnati le scorse settimane dalle borse sono un rally dei fessi, ha affermato durante una conferenza stampa a Hong Kong, e a coloro che hanno parlato di germogli di ripresa per l'economia americana, come per esempio il vicepresidente della Federal Reserve Richard Fisher, Roubini ha replicato: francamente vedo solo erbacce secche. Una bella botta di allegria e di ottimismo, va bene così. Mentre il numero uno di Citigroup, Pandit, ha detto, Vikram Pandit, agli azionisti della banca che restituirà ogni dollaro che ha avuto in prestito dallo Stato, sono 45 miliardi complessivamente, con gli interessi, una cosa anche che fa un po' sorridere nell'assemblea degli azionisti. Il fatto che Citigroup fosse messa così male, sia messa così male, si è anche capito dal fatto che non ci fosse nessun buffet, nessun banchetto organizzato per i suoi soci, a differenza di tutti gli altri anni. E un azionista indiano, Ram Bajapur, ha detto: Citigroup sta messa così male che non ci hanno offerto nemmeno un bicchiere d'acqua. Sono aspetti assolutamente di folklore, anzi di colore più che di folklore, però insomma qualcosa si capisce anche dall'assenza del buffet e del bicchiere d'acqua per gli azionisti. Da lì, dall'assemblea della Citigroup al Fondo Monetario Internazionale, che oggi ha aperto i suoi lavori a Washington. Un po' po' di pazienza chi scrive al 349-238-6666. Stiamo arrivando ai temi che molti di voi stanno sottolineando, ossia quanto si possa, diciamo, dichiarare conclusa la parte più forte, la parte più negativa di questa crisi. Lo abbiamo detto in tutti questi giorni, una cosa è dire che il peggio è passato, che si è evitato il rischio di un collasso vero e proprio del sistema finanziario e quindi la tenuta del sistema, del mercato in senso lato, altra cosa è dire invece che a questo punto si parta con una ripresa interessante, con vigore. Sono due cose molto diverse. A mio avviso, per il mio modesto parere, ha ragione chi dice che il rischio del collasso, il rischio 29, il rischio di un collasso del sistema è stato grazie all'intervento delle banche centrali, degli stati, dei governi che sono comprati pezzi e pezzi di banca, è stato evitato. Però il mio parere quindi non conta nulla. Sentiamo quello invece ben più importante di José Vinyals, che è il direttore della divisione mercati dei capitali e monetari del Fondo Monetario Internazionale, che ha illustrato i dati su quanto costerà con le nuove stime questa crisi, ossia i 4.000 miliardi di dollari che anticipavo prima in senso lato, di cui 3.000 e passa attribuibili al solo settore bancario. Le risposte senza precedenti fornite sia a livello finanziario che macroeconomico stanno gradualmente riportando la fiducia sui mercati. È però essenziale che continuino le azioni intraprese in modo da rafforzare e dare continuità ai primi segnali di miglioramento e per rendere sempre più solide le fondamenta per la ripresa economica. Voglio sottolineare che a causa dell'ampliarsi del deterioramento del credito abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime riguardo le svalutazioni, sia reali che potenziali. La stima sulle svalutazioni degli asset originati negli Stati Uniti è stata portata da 2.200 miliardi di dollari, indicati a gennaio, a 2.700 miliardi. Estendendo la nostra analisi anche alle altre zone del mondo, siamo arrivati al risultato che le svalutazioni entro il 2010 potrebbero raggiungere i 4.000 miliardi di dollari, di cui due terzi facenti capo alle banche. Voglio evidenziare, tuttavia, che le nostre stime rimangono soggette a un alto livello di incertezza. Uncertainty surrounds these estimates. Beh, diciamo, quest'ultima osservazione è una delle poche cose certe che le stime e le analisi di questi mesi, di questi anni, abbiano preso delle grandissime topiche e abbiano toppato, come si direbbe in gergo poco finanziario, più di una volta. Siamo tutti d'accordo sul fatto che anche il Fondo Monetario si sia svegliato un po' tardi. Per cui adesso non vorremmo che per un eccesso di zelo, con un po' di coda di paglia, uno dovesse sembrare più realista del re e avere previsioni ancora più negative di quelle già diffuse per recuperare così un po' di immagine. Ma è un sospetto malizioso e quindi infondato. Invece parliamo di cose serie con Alessandro Merli, che è inviato da Sole 24 Ore a Washington. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Dunque, insomma, doccia fredda su tutte le prospettive dopo Barack Obama e anche Ben Bernanke, e da noi domenica il ministro Tremonti, ieri anche Emma Marcegaglia, la presidente Confindustria, aveva detto, beh, insomma, sembra che il peggio sia alle nostre spalle, anche se sicuramente non è che si stia ripartendo con la ripresa. Il Fondo Monetario blocca tutti e dice di ripresa non si parlerà fino al 2010, e il deterioramento continua non solo in quello americano. Il conto totale di questa crisi arriverà a 4.000 miliardi di dollari. Alessandro, se ci fermiamo alla cifra dei 4.000 miliardi di dollari, in effetti è abbastanza impressionante, e bisogna dire che un anno e mezzo fa il Fondo Monetario parlava di circa 940 miliardi di dollari, quindi si può dire che sia triplicato questa stima nel giro di circa 18 mesi. È anche vero però che le stime iniziali riguardavano solo gli Stati Uniti e quelle attuali comprendono invece l'Europa e il Giappone, quindi diciamo che la base sulla quale fare queste stime si è allargata. L'altra cosa però che ha detto Vinyals oggi nella sua conferenza stampa, che è rimasta fuori dalla vostra clip, è che questo alto grado di incertezza può essere anche visto in positivo, cioè se l'economia in effetti dovesse riprendere più rapidamente di quello che ci si aspetta oggi, allora anche le perdite del settore bancario e finanziario potrebbero risultare alla fine inferiori a quelle stimate oggi. L'altra cosa però che ha detto, e questa non è molto rassicurante per l'economia reale, è che sta continuando questo processo di deleveraging, cioè di riduzione della leva finanziaria da parte delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, e che questo porterà a una contrazione del credito del 4% circa per quello che riguarda gli Stati Uniti e l'Europa, e questo indubbiamente è una cosa cui l'economia reale, quindi le imprese e le famiglie, risentiranno perché avranno meno credito a disposizione. La terza cosa però è che l'azione senza precedenti cui avete fatto riferimento nella clip che avete fatto sentire sta cominciando a dare qualche frutto, cioè qualche effetto di questi interventi straordinari delle banche centrali e dei governi comincia a vedersi. Questo è quello che ha detto il Fondo Monetario, certo. Oggi, e a questo proposito c'è una cosa che interessa in particolare all'Italia, perché nonostante nel rapporto diffuso oggi si evidenzi come dei paesi emergenti l'area più a rischio sia l'Europa centrale orientale, dove le nostre banche hanno la maggiore esposizione, Vignals però ha detto in conferenza stampa: è vero, questa è l'area al momento più a rischio, però è anche l'area dove ci sono stati le misure, gli interventi più forti sia dei governi dell'Europa occidentale, dell'Unione Europea, sia del Fondo Monetario stesso con i vari pacchetti di salvataggio, per cui possiamo dire che la situazione, anche per quello che riguarda l'esposizione delle banche occidentali, da questo punto di vista è migliorata. Beh, quindi diversi elementi e non tutti in scuro, alcuni anche in chiaro. Mi sembra che un consenso possa esserci sul ruolo che hanno svolto governi e banche centrali, cioè mi sembra di capire che anche chi è più pessimista, forse Rubini è l'unico che in questo momento dice che vede solo erbe secche, qualcuno mi fa notare scrivendo al 349-238-6666 che è già qualcosa se le erbe infestanti, l'erba mala diventa secca, vuol dire che non riesce più a diffondersi, mettiamola così. Ma dicevo, a parte Rubini, mi sembra che il consenso, Alessandro, sia abbastanza diffuso a livello internazionale sul fatto che senza quella enorme rete di protezione, forse è arrivata anche un po' in ritardo, ma insomma delle banche centrali, dei governi, americano in primo luogo, ma anche giapponese, ma anche cinese, in parte anche se minore i vari governi europei, questa rete insomma ha evitato il collasso vero e proprio, la crisi di fiducia, l'avvitamento totale nel credito. Diciamo che la situazione ha smesso di peggiorare quantomeno, secondo me molto dipenderà dai risultati di questo stress test, di questa simulazione che gli Stati Uniti si preparano a pubblicare per le 19 banche americane più importanti. Ora è già stato fatto trapelare che tutte le 19 verranno promosse, se così si può dire. Il problema è proprio questo, della credibilità di questo test, di come verranno comunicati questi risultati, perché è evidente che se si dirà semplicemente va tutto bene, le 19 banche sono promosse, lo stress test ha funzionato. Lo stress test cosa vuol dire? Vuol dire che simulare quali sarebbero gli impatti sui bilanci delle banche se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare a quella attuale. Allora, se si dice semplicemente le 19 banche sono promosse, tutto va bene, è chiaro che questo non è credibile né per i mercati né per l'opinione pubblica, che in questo momento, soprattutto negli Stati Uniti, è molto contraria a nuovi salvataggi delle banche con altri fondi pubblici. Se invece però si riuscirà a pubblicare in modo efficace che ci sono alcune banche che effettivamente sono in uno stato di salute migliore di quanto non fosse qualche mese fa, e che per le altre sono pronte delle misure di sostegno, allora ecco, questo forse potrebbe rappresentare un consolidamento definitivo, diciamo, di questo tentativo di ristabilire la fiducia. Ecco, gli stress test, che stanno diventando un termine ormai diffuso da tutti i giornali, altro non sono, come si farebbe per un test appunto di carattere ingegneristico, di una struttura ingegneristica, si va a mettere sotto pressione la struttura, immaginate un ponte, un grattacielo, una casa, per vedere come regge alle ipotesi peggiori, no? Questo sono per spiegarlo a tutti. Si fa la stessa cosa con le banche americane, cioè si individua lo scenario peggiore per capire come le banche reggerebbero. Esattamente così. In questo momento si dice i bilanci, si fa una fotografia attuale del bilancio e poi lo si sottopone a un peggioramento della situazione economica e dei mercati finanziari, cioè si dice che cosa succederebbe se la disoccupazione peggiorasse di tot per cento, che cosa succederebbe se i prezzi delle case dovessero continuare a crollare, cosa succederebbe ai bilanci delle banche se l'economia dovesse continuare a contrarsi, e si vede quale sarebbe l'aumento delle sofferenze, l'aumento dei titoli e degli altri attivi delle banche in difficoltà. A questo punto si valuta se le banche hanno bisogno di nuovi capitali o meno, e se ne hanno bisogno, se sono in grado di raccoglierlo fra privati, e lì c'è un grosso punto interrogativo, se c'è bisogno di un nuovo intervento dello Stato per ricapitalizzare le banche. Ecco, vediamo, speriamo che gli stress test vengano fatti in maniera molto molto seria, e quindi ipotizzando e mettendo sotto pressione realmente la struttura, come si farebbe appunto nei laboratori di ingegneria applicata. Grazie per ora Alessandro Melli in collegamento con noi da Washington. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Un po' di nervosismo nei vostri sms, così limitiamo anche ogni tanto la volgarità, per carità, nessuno si scandalizza qui, ma insomma, cercando di fare il punto, alcuni di voi sono molto dubbiosi che questa ripresa, questo miglioramento sia reale. C'è chi scrive: nessuno vedeva lo tsunami che stava arrivando, adesso com'è che tutti riescono a vedere la ripresa. Altri invece se la prendono con Rubini, che dicono adesso lui gioca ad avere il copyright del gufo, e quindi visto che ha beccato le previsioni 3 anni fa, adesso, diciamo, è diventato una, così, un'industria del pessimismo. Ancora divertente il commento di un ascoltatore che dice: io lo stress test lo faccio tutte le volte che vado a fare la spesa. In effetti anche questo è vero. E poi una correzione: no, la banca, il fatto che Citigroup oggi non abbia offerto nemmeno un bicchiere d'acqua, figuriamoci il buffet, agli azionisti, ai soci, come faceva negli anni scorsi, non è la stessa, è un segnale delle difficoltà in cui è un gruppo che ha chiesto 45 miliardi di aiuti allo Stato americano, ma non è lo stesso gruppo in cui il numero uno spese $1,700 per il cestino della spazzatura del suo ufficio. Il gruppo infatti era Merrill Lynch, però anche Citigroup non scherzava sulle spese folli di uffici e quant'altro. Comunque adesso la borsa e la giornata che si è chiusa meglio di ogni attesa, nel senso che alla fine gli indici sono invariati, una mano l'ha data l'America, mentre a inizio seduta e anche a metà si è temuto un'altra giornata pesante. Eh sì, perché gli indici perdevano tra il 2, il 2,5, anche qualcosa di più in alcuni casi. Alla fine vedo anche Parigi chiudere in positivo, più 0,1, Francoforte più 0,3, Londra mezzo punto percentuale di calo, l'America adesso guadagna lo 0,7%. Questa mattina invece Tokyo si era portata a casa tutti i ribassi di ieri in Europa e in America, meno 2,4%. Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, il miglioramento nell'ultima mezz'ora, nell'ultima ora, a cosa è attribuibile? Allora, in particolare il Wall Street aveva aperto in territorio negativo, penalizzato soprattutto dai titoli finanziari all'indomani della pubblicazione dei conti di Bank of America, che avevano innescato nuovi timori sul settore del credito, nonostante questi risultati fossero superiori alle attese degli analisti. Il recupero poi è iniziato proprio dal comparto finanziario, e infatti ora titoli come Citigroup, JP Morgan e la stessa Bank of America viaggiano al rialzo a Wall Street. E quindi questo poi ha fatto cambiare complessivamente addirittura il segno in molte borse europee. Anche Milano chiude sui massimi della seduta, meno 0,2%. L'euro, visto che ce lo chiedete, è 1,2976, quindi sempre leggermente sotto quota 1,30. Nei confronti della sterlina invece ferma a 88 pence per un euro. Le informazioni per chi è in viaggio a questo punto e poi i vari titoli, perché dentro il listino, oltre alle circa, hanno perso il 3,5%, Fiat ha perso il 3,3%, Mediobanca ha perso il 3%, Parmalat il 2,90%, ma sul fronte opposto il recupero di Geox più 5,5%, di Pirelli più 5,4%, Steamacrotronics più 5%, Campari più 4,20%, Mediolanum e Fondiaria più 3,90%, Mondadori più 3,60%, come Ansaldo il 3% lo guadagna l'Automatica, il 2,60% Finmeccanica, il 2,5% Ubibanca, il 2% Atlantia. Di nuovo in diretta, vedo che non si placa la verve polemica, va bene anche quella, di molti ascoltatori nei confronti delle previsioni economiche. C'è chi rispolvera giustamente Kenneth Galbraith con la sua famosa frase: l'unica funzione delle previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile l'astrologia. Io vi ricordo che noi l'astrologa l'abbiamo anche avuta, astrologa, non maga, attenzione, sono due cose molto diverse. E parliamo adesso del resto della borsa. Sono d'accordo comunque che le previsioni tutte, anche a maggior ragione i report degli analisti, vanno presi con le pinze, e infatti ci stiamo basando in questi giorni, in queste puntate, anche su dati molto molto empirici, per usare un parolone, e cioè il numero di camion e il commercio di carattere di container, commercio marittimo che sembra essersi rimesso in moto, i dati congiunturali mese su mese senza guardare all'anno su anno. Cerchiamo di capire anche dei segnali più sottili, più empirici, e non solo le grandi analisi, i grandi scenari. Allora, Livia Zancaner, con te sulla borsa. Partiamo da chi scusatemi, più oggi ha guadagnato: Geox più 5,5%, Pirelli, continua la corsa di Pirelli, più 5,5%, STMicroelectronics più 5. Sì, allora Geox ha recuperato dopo lo scivolone della vigilia, quando le azioni hanno perso il 4,7%. Allora oggi era in calendario l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2008 e il piano di stock option. Allora la società ha mostrato ricavi in crescita del 16% a circa 830 milioni di euro e ha stabilito l'assegnazione di un dividendo di 0,24 euro per azione. Sono sempre stati i conti trimestrali a sostenere Pirelli, che praticamente oggi ha pubblicato una trimestrale che si è chiusa con un utile netto di 1,1 milioni in calo rispetto ai 62,4 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Ma in realtà premiare il titolo è stata soprattutto la conferma da parte della società delle prospettive per il 2009 e i target del piano industriale che erano stati resi noti a febbraio. Inoltre il presidente Marco Trocchetti Provera ha ribadito di essere fiducioso sul raggiungimento dell'utile a fine 2009 e che Pirelli Tire, che l'ha controllata, ha mostrato un ottimo risultato, tenendo conto che ancora non incide la correzione dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda STM, la società ha beneficiato dei conti della concorrente americana Texas Instruments. La società ha infatti mostrato un utile di 17 milioni di dollari nel primo trimestre contro i ben 662 dell'anno precedente, ma è stato comunque un risultato superiore alle attese degli analisti. E inoltre bisogna dire che la scorsa settimana Nokia ha confermato le stime per fine anno e la stessa cosa ha fatto Toshiba, e quindi queste previsioni confermate hanno influito sulla buona performance del titolo italiano. E infatti tu giustamente fai notare che da un lato su Geox hanno pesato positivamente i conti, e questo di nuovo torniamo non all'analisi ma a numeri veri, e anche su Pirelli comunque l'utile è 1.100.000 euro, certo decisamente peggiore di quello del 2008 e con ricavi che scendono, ma insomma mostra un certo livello di tenuta. E così come su STMicroelectronics, tu giustamente lo ricordavi, Texas Instruments, che è la concorrente, ma in questo caso serve anche per capire come potrebbe andare e come va il settore, Texas Instruments ha avuto conti migliori delle attese di Wall Street, e anche questo è un dato, è un fatto, non è un'analisi, è una previsione. Spostiamoci nella parte bassa del listino quanto a variazioni percentuali. CIR -3,5%, Fiat -3,3%, Mediobanca -3%. Sì, allora, per quanto riguarda... Se teniamo anche Telecom Italia, che ha perso l'1,7. Ok, allora, per quanto riguarda CIR, le prese di profitto hanno colpito le azioni che hanno iniziato a perdere terreno dalla chiusura del 14 aprile, dopo un rally, però, che aveva portato il titolo a guadagnare il 39% dei minimi del 24 febbraio. Allora, secondo gli operatori, a innescare le vendite erano stati, una settimana fa, sono stati i timori sull'andamento del comparto auto riportati nella relazione dei bilanci 2008, e appunto a detta dei trader gli investitori ne hanno approfittato per passare all'incasso senza particolari motivazioni sui conti, visto che le controllate Sorgenia e HSS Holding Sanità e Servizi hanno mostrato comunque ricavi in crescita anche se con utili in calo. Per quanto riguarda Fiat, allora il titolo ha ceduto il 3,3% dopo essere cresciuto del 101% circa dal 9 marzo, seduta in cui le borse hanno toccato i minimi, in attesa dei conti che saranno pubblicati giovedì e dei dettagli sull'accordo con Chrysler, in particolare con i sindacati. Da ieri infatti sono ripresi i negoziati tra il Lingotto, Chrysler e rappresentanti del sindacato canadese dell'auto per trovare altre concessioni necessarie a ottenere l'ok all'operazione da parte del governo americano. Inoltre oggi il presidente di Fiat, Luca Cordero di Montezemolo, ha dichiarato che giovedì verrà fatto il punto sull'alleanza con Chrysler con Sergio, sì, Marchionne, che oggi è a Detroit, e che tutte le opzioni sono aperte nel caso fallisse l'accordo con Chrysler. Ricordo anche appunto il Financial Times che dice, beh, se Fiat non dovesse chiudere con Chrysler, certo che l'offerta fatta da General Motors su Opel ve la regaliamo, ve la diamo gratis, basta che poi ci mettiate dentro 500 milioni di euro, potrebbe essere l'altra ipotesi per Fiat. Titoli più sottili, e mi riferisco in questo caso ai migliori e peggiori, chiaramente. La peggiore oggi è Deutsche Telekom -8%, Telefonica -7,80%, Banco di Bilbao -7,70%, e qui forse riprendiamo anche Telecom Italia, perché ti ho interrotto in maniera impropria. E i migliori sostanzialmente Cobra Automotive Technologies +16%, e poco altro la Roma Calcio, +19%. I telefonici, visto Deutsche Telekom, Telefonica e appunto Telecom Italia. Sì, allora, i telefonici hanno perso terreno oggi in tutta Europa praticamente a causa di Deutsche Telekom, che ha rivisto al ribasso le stime di margine operativo lordo per il 2009 a causa della debolezza dei mercati e della crescente competizione. Secondo le previsioni, l'EBITDA del 2009, quindi il margine operativo lordo, scenderà tra il 2 e il 4% ed è 19,5 miliardi di euro dello scorso anno, mentre la società tedesca ha mostrato nel primo trimestre un margine al netto degli effetti straordinari in crescita del 3% e si aspetta comunque per il 2009 un cash flow intorno a 6,4 miliardi. E appunto di questa revisione al ribasso delle stime per il 2009 della concorrente tedesca, ha perso terreno Telecom Italia, che ha ceduto appunto all'1,6%, limitando comunque le perdite come il resto del listino milanese. E quindi abbiamo anche dato la parte delle telecomunicazioni. Giustamente hai ricordato l'effetto in questo caso negativo di Deutsche Telekom. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. A grande richiesta, devo dire. Mentre ci scrivono, e non sono pochi, gli autotrasportatori, che saluto tutti, e ci confermano che proprio chi trasporta poi le merci lo vede anche tutti i giorni, che c'è una leggera ripresa della produzione e che le imprese dove vanno sono leggermente più vive. Molti di voi, dicevo, a grande richiesta, furor di popolo, vogliono il gufo per le parole di Nouriel Roubini e anche per le stime del Fondo Monetario Internazionale, con cui abbiamo aperto il programma. E allora, volete gufo, gufo sia. Eh sì, perché insomma Nouriel Roubini ha definito erba secca le speranze di una ripresa dell'economia. Ha detto che in sostanza tutti quelli che in questo momento si stanno sperticando nel dire che l'economia è che c'è un rally alle porte, una ripresa alle porte, stanno parlando del rally dei fessi e che non ci sono germogli di ripresa ma solo erbacce secche. Poi il Fondo Monetario ci ha aggiunto anche una stima di 4.000 miliardi di dollari, di cui due terzi alle banche, come danno complessivo del sistema. Ma per restare nella linea che annunciavamo, cioè al di là delle previsioni degli analisti, di chi ci azzecca, di chi non ci azzecca mai e di chi ci azzecca per sbaglio, guardiamo i numeri concreti, i numeri del mese su mese, oltre che dell'anno sull'anno. E allora il dato di oggi sulle esportazioni: bilancio commerciale italiano in peggioramento, esportazioni in calo del 24%, le importazioni anche, ma vanno meglio a febbraio rispetto a gennaio, come ci racconta questa scheda. I dati sul commercio estero di febbraio rimangono pessimi, ma contengono anche qualche timido elemento di speranza. Le esportazioni si sono infatti confermate in forte calo rispetto all'anno prima e tuttavia hanno mostrato un incremento dello 0,6% rispetto allo scorso gennaio, soprattutto grazie ai mercati extraeuropei. Una tendenza positiva che dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi, come lascia presagire il buon andamento degli ordini, aumentati in marzo del 3,5%. Ma se a livello globale l'economia sembra essersi incamminata a piccoli passi verso un superamento della fase più acuta della crisi, il vecchio continente sembra muoversi più lentamente. Basti pensare che in febbraio le nostre esportazioni verso Francia e Germania sono scese del 23% rispetto all'anno prima, mentre verso Inghilterra e Spagna la discesa è stata ancora più ripida, con flessioni del 31% e di ben il 41%. Guardando ai settori produttivi, sono state ancora una volta le auto a registrare la caduta peggiore, con un export in discesa del 41% rispetto al febbraio 2009. Un'inversione di rotta è attesa però già con i dati di marzo, quando gli incentivi messi in campo dai vari stati hanno riportato in positivo le immatricolazioni. Cali del 30% hanno poi interessato la chimica e la siderurgia, mentre la meccanica ha registrato un meno 26% su base annua. Soffrono in generale i settori tradizionali del Made in Italy. Il tessile è sceso del 30%, l'abbigliamento del 10%, il calzaturiero del 15%. In difficoltà è infine anche il mobile, che ha registrato una flessione del 23% rispetto a febbraio, ma che con il Salone del Mobile, che inizia domani a Milano, proverà a rilanciare lo sguardo oltre la crisi. E quindi qualcosa si muove, pur si muove, vedremo quanto si muove, quanto il movimento non sia un sussulto così da malato terminale, ma invece una ripresa vera e propria. Ci chiedete che cosa sono le 4A di Marco Fortis, che tra l'altro avremo ospite a breve. Le 4A del Made in Italy sono chiaramente abbigliamento, settore automotive, l'alimentare e appunto l'arredo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato ampiamente delle previsioni del Fondo Monetario, attenzione, è chiaro che fa notizia soprattutto la nuova cifra su quanto costerà questa crisi, i 4.000 miliardi complessivi, la cifra è astronomica, è difficile quasi immaginarla, di cui due terzi facente capo alle banche. Attenzione, perché in realtà il Fondo Monetario, come giustamente ricordava l'inviato del Sole 24 Ore Alessandro Merli, ha anche detto che però l'azione dei governi, delle banche centrali, ha permesso, da quello che si vede, di evitare la parte più pericolosa della crisi, quindi l'avvitamento, ha garantito liquidità. Non è un rapporto solo in negativo, è un rapporto preoccupato e che sposta, diciamo, l'ipotesi di una ripresa al 2010. Dopodiché vedremo cosa uscirà domani con tutti i dati dell'outlook di primavera. E poi anche che usciranno, insomma, tra domani e i prossimi giorni. Il Fondo Monetario resterà riunito fino a sabato, se non ricordo male, quando poi arriveranno anche i ministri economico-finanziari dei G7, dei G20 e i banchieri centrali. Però, insomma, il rapporto non era solo in negativo. Del commercio con l'estero abbiamo detto, e anche molti di voi ci chiedono di precisare se è vero che le ferrovie dello Stato saranno inutile netto. Sì, lo ha detto il numero uno Mauro Moretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, a maggio di un convegno sulle infrastrutture. Lo facciamo anche riascoltare, chiedo alla regia di mandare in onda quindi il passaggio in cui Mauro Moretti, al microfono della nostra Paola Cavadi, ricorda come dovrebbe chiudersi quest'anno, o meglio il bilancio dell'anno scorso, delle Ferrovie dello Stato. Sì, abbiamo un margine operativo che è vicino al miliardo di euro e abbiamo un risultato netto consolidato, avremo un risultato netto consolidato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Così appunto l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Altri aggiornamenti sul fronte General Motors e soprattutto sul fronte Chrysler. Non ci sono notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove ieri è volato Sergio Marchionne per la terza volta per incontrare i vertici della Chrysler, ma anche la parte sindacale e l'amministrazione americana. L'unica novità è un'agenzia della Associated Press di poco fa, in cui si sostiene che General Motors e Chrysler potrebbero ricevere un nuovo prestito federale da 5 miliardi e mezzo di dollari. Questo mentre le due, perché non c'è solo Chrysler, la scadenza del 30 aprile vale anche per General Motors, sono impegnate appunto a trovare un piano di ristrutturazione credibile entro il 30 aprile per ottenere i soldi, gli ulteriori soldi del governo americano. Infatti General Motors ha già ricevuto 13 miliardi e mezzo di dollari, Chrysler ha ricevuto 4 miliardi di dollari. Poche altre indiscrezioni sul fronte dell'operazione General Motors e Chrysler. Per quello, alcuni di voi ci chiedono, vabbè, ve lo diamo di nuovo, il dato sul commercio con l'estero. Il rosso nei primi due mesi dell'anno è stato di 4 miliardi e 4, ma ripeto, le esportazioni su base annua vanno male, e quindi febbraio su febbraio meno 25%, ma sono aumentate dello 0,6%, poca cosa, ma comunque un segno più a febbraio rispetto a gennaio. Confermo anche che oltre al settore auto particolarmente male va la meccanica, meno 26% anno su anno in questo caso, la chimica meno 30%, siderurgia meno 30%, tessere abbigliamento meno 16%, mobili meno 23%. E un'altra richiesta che ci è arrivata in questi giorni di parlare anche del settore delle due ruote e quindi le moto, perché abbiamo dato molta importanza, a mio avviso correttamente, alle quattro ruote, non solo per il crollo drammatico nell'immatricolazione a livello europeo, per le difficoltà di tenuta di molti grandi gruppi, perché gli incentivi auto lì si sono diretti, ma anche per l'operazione e l'ipotesi di operazione Fiat Chrysler. Di nuovo in diretta una brevissima correzione, avete ragione, 30 aprile è la scadenza per Chrysler, la scadenza per General Motors è il 31 maggio, meglio il 1 giugno, insomma 31 maggio, 1 giugno è la data ultima in cui General Motors può presentare il piano per ottenere i nuovi fondi governativi promessi, a patto che vi sia un piano di ristrutturazione dallo stesso Barack Obama. Dicevamo delle due ruote, e allora uno dei simboli del nostro Made in Italy è sicuramente la Ducati, non ne parliamo tanto a livello sportivo, ma infatti ne parliamo perché oggi la Ducati ha presentato i conti del 2008 in un settore e comunque non è rimasto esente dalla crisi finanziaria quanto a immatricolazioni, dalla crisi economica quanto a immatricolazioni. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente e amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, Gabriele Del Torchio, buonasera. Buonasera a voi. Iniziamo dai numeri, visto che stiamo analizzando anche nello specifico molte imprese in queste settimane, in questi giorni, per capire 2008 e soprattutto 2009 come si stiano delineando le prospettive. Voi avete registrato un fatturato 2008 comunque in crescita, sia per il fatturato che per EBITDA, 469 milioni contro i 398. Ci può raccontare questi dati anche includendo le quote di mercato? Il 2008 è stato per noi davvero un ottimo anno, probabilmente, anzi certamente il miglior anno della storia della Ducati, sia in termini di volumi di fatturato, ovviamente in termini anche di moto immatricolate e di evoluzione della nostra partecipazione al mercato un po' in tutto il mondo. Nel 2008 abbiamo esportato più del 75% della produzione nostra, fatta tutta qui a Bologna, a Borgo Panigale, un anno anche interessante dal punto di vista dei risultati economici, con un concreto miglioramento del margine operativo. Peraltro questi risultati ci fanno molto piacere perché sono stati ottenuti in un esercizio che ha visto il mercato a partire dal mese di settembre del 2008 in progressiva discesa. Noi abbiamo reagito in controtendenza, salvo naturalmente nel mese di dicembre, di fronte a un mercato che calava vistosamente, iniziare anche noi a segnare un segno meno nelle immatricolazioni, ma alla fine abbiamo chiuso, come dicevo poc'anzi, un anno buono. Buono è tutto ciò grazie a una intelligente politica di sviluppo di prodotto, quindi a un costante rinnovo della gamma, a un potenziamento dell'immagine di marca in giro per il mondo e alla rete distributiva. Sempre sul 2008, ma già guardando al 2009, quanto a cassa e liquidità voi siete messi bene? Abbiamo chiuso il 2008 bene. Il 2008 peraltro ci ha consentito di ripagare completamente tutti i nostri debiti. Naturalmente poi c'è stato il delisting, per cui la posizione finanziaria oggi risente dell'operazione di delisting, ma credo che anche nel 2009, seppure in presenza di una situazione particolarmente difficile di mercato, dovremmo comunque generare la cassa per far fronte ai nostri impegni. Ecco, lei giustamente ricordava che il bilancio che stiamo analizzando è il primo da quando siete usciti dalla borsa, il delisting questo vuol dire, quindi è il primo senza essere quotati in borsa. Veniamo proprio al 2009, perché il mondo dell'auto ha avuto ha iniziato ad avere qualche beneficio dagli incentivi, penso all'ultimo dato sulle immatricolazioni di marzo, in cui in Italia sostanzialmente il segno era un più 0,6, sostanzialmente invariato, non più un crollo. Il mondo delle due ruote invece anche a marzo ha visto un meno 21%, voi avete fatto decisamente meglio della media, ma sempre un meno 12% avete registrato. Vedete qualche segnale di miglioramento, perlomeno di una caduta che si può definire arrestata sì, nella sua parte più pesante, oppure ancora troppo presto per le due ruote? Ma qualche segnale di miglioramento cominciamo a percepirlo. Devo dire che già nel mese di marzo siamo andati meglio rispetto all'andamento generale del mercato, ma anche i mercati nel loro insieme hanno rallentato la velocità di caduta. Io penso che la caduta continuerà anche nel mese di aprile, ma ho particolare fiducia in particolare sull'Italia e su qualche altro mercato europeo, penso alla Francia e alla Germania, quindi io mi auguro, ma ho ragioni di ritenere, che nel mese di aprile dovremmo essere più o meno allo stesso livello dell'anno scorso in Italia, forse con un frazionale segno meno, e comunque a livello mondiale, per quanto riguarda i nostri risultati, dovremmo avere una caduta a un digit e non più a due digit, che è quello che abbiamo sperimentato ormai da dicembre fino ad oggi. Quindi a una cifra, questo digit vuol dire, cioè entro il 10% e non superiore al 10%, per diciamo brutalizzare un po' il concetto. Visto che voi vendete 43.000 moto, più o meno sono 40.000 moto, è quello che avete venduto l'anno scorso, da quali paesi, e le vendete dovunque, non è che la Ducati venda prevalentemente in Italia, da quali paesi o su quali paesi o aree geografiche siete cautamente più ottimisti? Ma stranamente in questo momento, stranamente fino a un certo punto, la cosa ci riempie davvero di orgoglio, stiamo crescendo bene in Giappone, il che per noi è motivo di grande soddisfazione, certo. Perché insomma poi il Giappone è la terra dei nostri concorrenti e dei grandi costruttori mondiali di motocicli, lì stiamo andando bene in Italia, o relativamente bene in Italia, sempre rispetto al resto del mercato. Non notiamo ancora segnali confortanti negli Stati Uniti. Devo dire che i due paesi che in questa fase ci preoccupano maggiormente sono gli Stati Uniti e la Spagna. La Spagna ha avuto dei cali di mercato vistosissimi, poi le condizioni dell'economia spagnola sono note un po' a tutti noi. E negli Stati Uniti pensavamo che la primavera si accompagnasse con un recupero di mercato, ma ahimè, quello è un mercato che è fortemente legato alla disponibilità dei finanziamenti. Il cliente americano compra solo quando ha il finanziamento a disposizione, e la rigidità del sistema bancario e finanziario americano è ancora molto forte. Nel resto d'Europa penso che faremo meglio. Ecco, vedo che gli ascoltatori hanno ragione, mi dicono scrivendo al 349-238-6666 di farle i complimenti, hanno ragione, ripeto, perché avete vinto comunque, a noi fa piacere in quanto marchio italiano, il primo GP della stagione, quello in Qatar, con Stoner, il prossimo, a questo punto lo ricordo, sarà domenica 26 in Giappone. Complimenti e bravi, come li faremo a qualunque, diciamo... gruppo italiano che riesce ad avere successo anche nello sport. Andiamo avanti invece con la Ducati come gruppo di impresa e come impresa. Vorrei capire, anche riallacciandomi alla prima parte di questa puntata, al di là della crisi intesa come parte più congiunturale, contingente, immediata, immaginando che, secondo i segnali che arrivano, la parte peggiore sia alle spalle, vorrei capire però quale sarà l'eredità, il portato, insomma, l'elemento di medio termine di questa crisi, superata quella così più ansiogena e di tenuta dell'intero sistema. Nel caso specifico vostro, vorrei capire se state ragionando su diverse strategie aziendali alla luce anche degli effetti, ripeto, più di medio termine che questa crisi avrà sui consumi, e quindi diverse strategie sul prodotto e anche sulla parte commerciale. Io credo che, così abbiamo ritenuto fin dal primo momento, che questa crisi è un po' una provocazione, la mia, ma per Ducati potesse trasformarsi in un'opportunità se ben gestita, e sono assolutamente convinto di quanto sto dicendo, perché per troppi anni ci hanno raccontato, per molti anni ci hanno raccontato che la dimensione di azienda era il fattore competitivo vincente, che occorreva essere davvero molto grandi per poter sopravvivere e comunque generare dei risultati interessanti. Ma questa crisi in qualche modo ha fatto giustizia di queste affermazioni, perché oggi chi sta male sono soprattutto i grandi gruppi, che sono alle prese con situazioni particolarmente complesse. Io sono convinto che questa crisi evidenzia due fattori fondamentali per il futuro, due elementi su quali costruire il futuro. Uno è la forza delle idee e il secondo è la velocità. Che per una moto, la velocità non è poco, eh? Per noi la velocità, poi ovviamente intendo la velocità nel sapere poi reagire, nel sapere poi implementare le azioni correttive tenendo la barra molto ferma, quindi nessuna deviazione sulla strategia di fondo, ma la capacità di modificare le proprie azioni al cambiare delle condizioni esterne. Le idee fanno parte del patrimonio dei nostri uomini, di quelli che hanno contribuito a creare la Ducati quello che è oggi, e poi le idee fanno parte un po' del patrimonio italiano, siamo un popolo di inventori, un popolo di innovatori, e quindi questi sono i due elementi su cui noi vogliamo costruire in maniera molto forte. Peraltro sul mercato sta capitando una cosa interessante, i clienti si stanno un po' polarizzando, la clientela è interessata da un lato o a prodotti di massa, quindi molto economici, quindi molto competitivi nel prezzo, poco distintivi nelle loro caratteristiche. Dall'altra parte c'è una fetta interessante e importante di clientela che è interessata invece alla distintività, a prodotti che siano rappresentativi un po' delle proprie esigenze, della propria personalità. La nostra scelta è quella di coltivare quel segmento, cioè il segmento che noi chiamiamo premium del mercato, dove riteniamo che il fatto di essere italiani, di avere una fabbricazione completamente italiana, di avere un livello tecnologico superiore e di avere tutta la reputazione e il trasferimento di tecnologia che ci arriva dalle corse sia un elemento vincente. Per cui penso che la crisi non comporterà mutamento dei nostri orientamenti strategici. Certo, causerà una battuta di arresto temporanea sui nostri programmi di sviluppo, ma le strategie di fondo basate sul prodotto, sulla immagine del brand, sull'innovazione rimangono in maniera molto ferma, tant'è che nell'ambito delle azioni che ho portato avanti per in qualche modo contrastare gli effetti economici di questi mesi del 2009 c'è un severo taglio di tutti i costi organizzativi, salvo due aree che sono state attentamente preservate. La prima sono gli investimenti per lo sviluppo del prodotto, perché il prodotto è la nostra ragione d'essere, e tagliare oggi vuol dire sentire fra qualche anno l'effetto, perché ci mancherebbero i prodotti nuovi. E la seconda è l'investimento sulle competizioni, sia come laboratorio tecnologico di idee e di sviluppo, sia come notorietà e capacità di promuovere il marchio in tutto il mondo. Ci può dare due esempi concreti, così anche molto semplici, di come per voi la crisi possa essere un'opportunità? Innanzitutto per questo cambiamento in maniera importante degli atteggiamenti dei consumatori polarizzati, così come ho detto prima. E dall'altra parte perché io vedo i nostri concorrenti, soprattutto quelli grandi, hanno bisogno di molto più tempo per reagire alle situazioni che sono cambiate. Noi abbiamo fatto un lavoro molto importante di controllo degli inventari presso tutta la rete di vendita. Sarebbe stato per noi agevole spingere ulteriormente i risultati del 2008, ottenendo poi però magari qualche stock di troppo in giro per il mondo che sarebbe stato poi pagato nel 2009. Lì siamo stati molto rapidi, abbiamo capito che il clima cambiava e abbiamo posto in essere tutte le azioni correttive del caso. Un'ultima domanda riguarda, sempre entrando nelle scelte di strategia aziendale, anche il vostro nuovo stabilimento. Visto che voi esportate, vendete le Ducati in 65 paesi, avete filiali in Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, America, Nord Europa, avete intenzione di delocalizzare o internazionalizzare, cioè aprire stabilimenti anche all'estero? Noi siamo orgogliosamente italiani, pensiamo che uno dei valori di questa azienda sia rappresentato proprio dal fatto che le moto vengano progettate e costruite qui. Il nuovo stabilimento è un progetto, so che se ne parla molto, ma siamo ancora agli inizi di un percorso che ahimè autorizzativo, che è molto lungo in Italia. L'obiettivo di questo stabilimento è quello di creare le condizioni per un ambiente ancora più creativo per i nostri ingegneri, condizioni di lavoro migliori e più sicure per tutti i nostri dipendenti, ma soprattutto la capacità di fare ulteriormente punto di attrazione per tutti i ducatisti in giro per il mondo. Ogni anno da noi vengono oltre 40.000 visitatori per il nostro museo, per la nostra fabbrica, è giunto il momento di fare un passo avanti offrendo delle capacità di accoglienza ancora più vaste rispetto alle attuali. A Bologna, perché noi siamo la rossa di Borgo Panigale e vogliamo rimanere fortemente considerati come un'azienda italiana, uno degli ambasciatori del Made in Italy in giro per il mondo. E a noi questo, come italiani, fa piacere, così come, ripeto, ci fa piacere quando vince un marchio italiano anche nel GP, ci fa piacere anche quando vince un italiano, per cui a questo punto l'atteggiamento è bipartisan. Grazie al presidente e all'amministratore delegato della Ducati Motor, Gabriele Del Torchio. Grazie, saluti a tutti e arrivederci. E siamo veramente in conclusione, l'ultimo aggiornamento adesso è su Wall Street, che conferma il rialzo, più 0,9% il Dow Jones, più 1,5% il Nasdaq. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.